È con noi Roberto D'Alessandro, autore, regista e interprete dello spettacolo Terroni, 150 anni di menzogne dal libro di Pino Aprile, che sarà in scena a Roma, al Teatro Ghione, dal 24 al 29 aprile. Roberto, ben trovato. Allora, dicevamo prima che con te che comincia a essere una vecchia gloria questo spettacolo. Passano gli anni, più me lo chiedono, più si sa che è stato fatto, insomma, poi replico da 6 anni, ma non ho fatto lunghissimi periodi, eccetera, eccetera. Saremo un paio di centinaia di repliche, ecco. Sì. Allora, partiamo dall'inizio per chi ci ascolta e non lo conoscesse. Il libro di Pino Aprile, ce lo descrivi un po'? Il libro di Pino Aprile è un riblo rivoluzionario. Infatti io dico adesso facciamo la rivoluzione di aprile, dal 24 ci sarà nuovamente la rivoluzione d'aprile. È illuminante perché praticamente, come dire, è come scoprire l'acqua calda, perché dopo che è uscito il libro molti accademici, professoroni, professori di storia, quelli accreditati, quelli, i parrucconi, no? Sì. Dice, ma questa roba la sapevamo. E giustamente lui dice, perché non ce l'avete detta prima? E parla, come dire, della genesi del nostro paese, dell'Italia. E uno che scopre com'è che è nata l'Italia capisce perché l'Italia va avanti in queste condizioni, va avanti in maniera così malata, perché è nata proprio sul fronte. Molte nazioni dicono, dice sempre Pino, nascono comunque sulla sopraffazione di una parte, sull'altra, di una così. Ma poi le cose vengono raccontate, le cose vengono dette, tutti sanno che i miti fondanti sono delle invenzioni per avere proprio una mitologia della nazione, no? Sì. E invece noi crediamo tutti quanti che Garibaldi davvero fosse l'eroe glorioso che ci raccontano nelle pagine dei sussidiari, o che Cavour fosse questo fine, o che la famiglia Savoia fossero i padri della patria, tant'è che li teniamo ancora nel Pantheon, e l'ultimo l'abbiamo fatto pure rientrare, poi Emanuele III, che era Gentaglia, ma Gentaglia vera. Ma va bene, possiamo anche far finta invece che siano i padri della patria, però la storia ce la dobbiamo raccontare, e questo dice Pino, e ce la racconta in questo libro, che diventa veramente il punto di riferimento poi di un movimento intellettuale che si sta agitando parecchio così tutto il sud. Non escludo per esempio che il voto dei 5 Stelle sia stato parecchio influenzato anche da questa nuova ondata meridionalista, da una presa di coscienza, benché devo dire che il sud, come la Sardegna, alla fine le abbiamo provate tutte, perché avremmo votato pure Belzebù, come dice Pino Aprile, pur di tentare di uscire da questo imbuto. Se non capiamo che siamo nati come colonia e siamo ancora trattati come colonia, il problema non verrà mai risolto, e questo purtroppo è il punto. E lui spiega tutte queste robe, le spiega in maniera dettagliata, le spiega poi non solo in Terroni, ma in tutti i libri che seguono sul filone meridionalista, perché quando lo conobbi, io lessi il libro nel 2010 e gli chiesi cosa, se potevo fare uno, e lui raccontò un po' di cose, dice, ma il libro in realtà superava le migliaia di pagine. Poi però la casa editrice fece una selezione, ne pubblicarono, perché aveva una quantità di materiale, erano decenni che ci studiava su questa roba, e conosceva e ha messo insieme tutti gli elementi più fini del meridionalismo, da Zitara, Ciano, De Crescenzo, insomma, lui ha fatto un servizio giornalistico, e poi da sociologo ha impostato anche il tema da un punto di vista sociologico, spiegandoci che il male più grave che ci hanno fatto i fratelli del Nord è quella di un'attribuzione di minorità, addirittura antropologica, cioè il meridionale è inferiore inferiore perché non ci arriva. No. Sì. Del resto, se stanno in queste condizioni, il motivo sarà questo, che non ci arrivano, non ci arrivano di testa. E noi ci siamo anche convinti di questa roba, perché molti meridionali si sono convinti che, pur poi andando fuori e diventando sindaci di Toronto, di New York, grandi imprenditori, cioè oramai che so io, metà del PIL della Lombardia lo produce il sud, no? Sono operai, intellettuali, docenti, eccetera, eccetera. E continuiamo ad essere trattati però sempre da serie Come documenta Pino Aprile, tu parlavi di colonia, appunto, è stata una vera e propria, invasione militare e depredazione. assolutamente. Questo oramai non riescono più a negarli in nessun modo. Certo che poi, come accade, tutti metti ad esempio adesso questi periodi post-bellici in Iraq piuttosto che in Afghanistan, poi non è che tu dici un popolo è monolitico, un popolo ci sta, uno che si vende, un altro che non si vende, uno che si butta con l'emico, un altro invece che si fa ammazzare pur di tenere fede. Poi delle condizioni personali, ad uno gli viene ammazzato un carro e diventa una carogna, non lo so, è molto complessa, no, la situazione, come viene documentato anche in molti film nell'Italia post-fascista, non è monolitica, ci stanno comunque dei problemi di schieramenti, un tanto disordine, il fatto è che ci si arriva a questo disordine, se tu ammazzi Gheddafi è chiaro che poi succede c'è quello che succede in Libia, vediamo che c'è grande disordine perché ancora non c'è stato ristabilito nessun ordine, nessun potere. E loro ci misero più di 10 anni a mettere ordine in quello che era il regno delle due Sicilie. Ci misero più di 10 anni con massacri, leggi speciali, fosse comuni, rappresaglie, centinaia di paesi rasi al suolo. Ma io non mi spiego perché ce ne stanno proprio tanti giù, uno passa e dice ma vedi, chissà che c'era qua, sono rimasti dei ruderi. Purtroppo sono centinaia i paesi eccidiati in quel decennio che va dal 1861 al 1870, gli archivi militari di quel periodo sono ancora segretati, non ci sta segreto di Stato ma non li hanno catalogati, sono buttati là in delle casse. Ancora ci sono depistaggi sulla ricerca di quel periodo perché è stata fatta carne da macello. Carne da macello a cui purtroppo qualcuno ha giovato, qualcuno anche meridionale, è chiaro. Per cui la situazione è stata di grande disordine e di fatto è stata un'occupazione militare di uno Stato sovrano, quella il regno delle due Sicilie da parte del Piemonte con l'appoggio di Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Roberto, ci racconti anche un po' l'operazione della messa in scena e su cosa hai puntato? Dunque, dovendo parlare così tanto di pensiero, di un racconto così di storia, la cosa che mi è venuta in mente è stata quella di usare il modulo della Teatro Canzone di Giorgio Gaber. Quindi ho preso proprio quel contenitore che sono tutti gli espedienti teatrali di Gaber, e ci ho messo il contenuto di questo libro. E ne è uscito fuori uno spettacolo che comunque, come dicevo a Pino, io il teatro parlo sempre alla pancia, per cui io devo in ogni monologo che metto trovare una chiave che arrivi non solo alla testa, ma arrivi proprio alla pancia dello spettatore. E così ho messo insieme 10 monologhi alternati da 10 canzoni della tradizione musicale meridionalista. Ce n'è tanta in Italia, ho scoperto, anche in maniera inaspettata, che so io, da Modugno, Mattone, Arbore, Bennato, Mimmo Cavallo, ma ce ne stanno proprio tanti, tanti, fino ad arrivare ai ragazzi moderni che ci stanno. Ce ne stanno tantissimi che continuano a fare canzoni in quella direzione. E ne è uscito fuori uno spettacolo di grande, così, impatto emotivo. ecco, oltre che esci fuori e ti ci serve un po' di tempo per digerire tutta quella roba, cioè ti resta in testa per un po' di tempo, non è una roba che è chiaro, poi a un meridionale magari un po' di più, però mi è capitato di farlo a Milano e il giorno dopo ricevere delle telefonate di scuse da parte di guardi, non c'entra, lei non c'entra nulla, che ne so, però come dice Pino, sempre due gocce di verità servono veramente a creare armonia, perché è così, perché negarcela, perché ancora su queste menzogne purtroppo ci sono degli interessi giganteschi. Questa è la verità. Roberto, ci dai anche i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e più in generale sulla tua attività? Io ho il mio sito che è www.robertoalessandro.it, c'ho il mio canale YouTube che è Roberto D'Alessandro, sul quale peraltro è caricata la versione al debutto al Teatro Quirino il 21 di marzo del 2011 di Terroni. Ci stanno anche altri spettacoli miei, commedie e altre robe. E poi ho Facebook, Instagram e tutte queste cose qua. Bene. Quindi insomma, chi mi vuole trovare mi trova facilmente. E poi, come dicevamo, c'è il podcast di Terroni che abbiamo registrato a Radio Onda Rossa. Sì, infatti lo metterò come link di riferimento anche quello. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Terroni, 150 anni di menzogne, diretto e interpretato da Roberto D'Alessandro a partire dal libro di Pino Aprile, al Teatro Ghione a Roma dal 24 al 29 aprile. Roberto, è sempre un piacere, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, per completezza volevo aggiungere che con me ci sta Mariano Perrella Bene. e Marco Raul Marini con Mirko e Flavio che sono la sua band, perché questa è una nuova versione ovviamente di questo spettacolo. Terroni che al Ghione, pronto? Sì. Ho sottotitolato la vera storia dell'Unità d'Italia. Benissimo. A presto, Roberto, un abbraccio. Grazie, un abbraccio, un bacione, ciao ciao.